Magazine 24, la rassegna dei settimanali, a cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24, buona domenica, soprattutto domenica 2 maggio. Come sempre cerchiamo di andare a segnalarvi gli articoli più interessanti, le notizie un po' curiose, un po' inattese, viste sui settimanali, sui periodici italiani e stranieri. Questa mattina mi piace partire da una lunga collezione di credenze e di confronti con il sapere scientifico che viene presentata da Focus di questo mese. Focus, come sapete, mensile dedicato alle questioni scientifiche, si occupa di una serie di credenze, di una serie di appunto opinioni diffuse, più o meno credenze popolari diffuse, legate alla Luna. E allora ovviamente nelle correlazioni tra l'attività umana, l'attività diciamo sulla Terra in genere e la Luna si studia da molto tempo, ce ne occupiamo direi da millenni. Ora c'è anche un volume da cui appunto Focus ha tratto anche parte di queste risposte. Il volume si chiama Dalla Luna alla Terra e gli autori sono Marta Erba, Gianluca Ranzini e Daniele Venturoli. Vi leggo qua e là perché le domande e le risposte sono decisamente parecchie, non possiamo leggerle tutte, vi rimando poi al numero di Focus in edicola. Ad esempio, ci sono fasi della Luna in cui si pesca di più? È una delle questioni che vengono poste più spesso. Beh, la risposta è sembrerebbe di sì, cioè gli stessi scienziati concordano, dicono la risposta esatta dipende probabilmente dalle specie e dal luogo in esame, però secondo uno studio che è stato condotto nello stretto di Iloilo, che si trova nelle Filippine, la pesca in quella zona è più abbondante nell'ultimo quarto di luna ed è meno abbondante nel primo quarto. Due ricerche condotte in Australia peraltro hanno evidenziato una pesca più abbondante nel primo quarto, ma solo per alcune specie, e nell'ultimo quarto per altre specie. Quindi in qualche modo ci sono delle fasi della Luna in cui la pesca è più fruttuosa. Un alone intorno alla Luna, un'altra cosa che sentiamo dire spesso, che magari diciamo spesso, preannuncia una tempesta. Questa è una cosa che dicono i marinai. In realtà gli scienziati precisano che è vero, ma solo in alcune circostanze. Quali sono? Quando la luce diffusa dai cristalli di ghiaccio che sono nell'alta atmosfera è causata da nubi temporalesche che sono in arrivo. Quindi questo è il motivo dell'alone cosiddetto attorno alla Luna. Noi vediamo la Luna alonata, ma si tratta di un effetto, di una proiezione dell'atmosfera. Con la luna piena, questo lo sappiamo tutti, lo diciamo sempre, i lupi ululano, e naturalmente no, cioè non è vero, purtroppo devo dirvi, leggendolo qui da Focus, che non è così. I ritmi degli animali notturni, leggo, certamente dipendono dalle fasi lunari, ma non è vero che i lupi ululano di più nelle notti di luna piena, lo fanno di più invece indipendentemente dalla luna all'alba e al tramonto, cioè quando è prima e dopo la caccia. Per loro, questo il loro comportamento nei confronti della Luna. Un'altra credenza particolarmente diffusa, poi naturalmente ognuno di noi sarà libero di regolarsi come crede, è meglio imbottigliare il vino con la Luna calante. Chi abbia imbottigliato del vino sa che ci sono appunto da rispettare queste fasi lunari, correttamente ammettono da Focus, lo sostengono soprattutto gli imbottigliatori, però non esiste alcuna prova scientifica in merito. In ogni caso, è la precisazione che in qualche modo mette d'accordo tutti, bisogna notare che oggi i metodi per produrre il vino sono molto diversi da quelli antichi, non sono più legati alla periodicità lunare, quindi seppure il detto poteva valere in passato, consentono gli scienziati, oggi davvero non ha più ragione di essere. E invece una cosa su cui hanno ragione in qualche modo i contadini è la legna raccolta con la luna piena è più dura? Sì, secondo i produttori di tutto il mondo è proprio così, dall'America Latina all'India. Non vi sono prove scientifiche a sostegno, questa quasi quasi dopo tante smentite è quasi una buona notizia, non hanno trovato le prove scientifiche a sostegno se non il fatto che l'orologio biologico delle piante sembrerebbe in alcuni casi sincronizzarsi con le fasi della luna, e quindi ad esempio le foglie delle palme che vengono raccolte con la luna piena sono più ricche di carbonio e sono sono più povere di calcio. E infine, con il plenilunio aumentano le nascite, è un'altra delle dicerie, un altro dei detti che spesso si ripetono, e qui devo dire la scienza prende un po' le distanze. Anche in questo caso, dice Focus, ci sono stati diversi studi con risultati contraddittori. La ricerca più completa è stata effettuata nel 2004 negli Stati Uniti, nello stato del North Carolina. Hanno monitorato 550.000 nascite tra il 1997 e il 2001 e non hanno trovato alcuna correlazione tra le fasi lunari e le nascite, liberi naturalmente poi di essere smentiti da quella che può essere l'esperienza magari di chi lavora più a contatto con questi lieti eventi e forse ha un'opinione diversa da quella che hanno potuto appurare gli scienziati. Restiamo su Focus, è domenica, quindi in qualche modo parliamo di qualcosa di più divertente, parliamo di gioco, parliamo però di un particolare gioco, sono i social game. Cosa sono i social game? Sono praticamente dei videogiochi, il concetto è quello del videogioco, del gioco al computer, ma la loro particolarità è che non vengono eseguiti dal giocatore sul suo proprio computer, ma invece si giocano nei social network. La cosa appunto magari può lasciarvi indifferenti, ma io ho il dovere di dirvi, come si vede da Focus, che questo tipo di passione annovera nel mondo attualmente circa 330 milioni di iscritti, quindi decisamente una popolazione di tutto rispetto, è una nuova forma di amicizia, è un business ed è anche però un rischio, spiegano da Focus. Vi dico qualcosa, tra l'altro è un modo di giocare questo, di avere questo dei social game, alcuni social games sono ad esempio giochi come Farm Town, bisogna custodire, accudire un appezzamento di terra, oppure Restaurant City, dove si organizza, si gestisce un ristorante, Country Life, che è un altro social game, cioè gioco sociale ambientato nel mondo contadino e così via. Ecco, a questi giochi le donne sono in maggioranza, perché sono il 55% le donne che utilizzano, ricorrono a questi giochi rispetto agli uomini. Per rendersi conto, spiega Focus, dell'aspetto sociale dei social game, basta fare un giro nel villaggio virtuale di Farmville, che sfruttando l'onda di Facebook ha conquistato in pochi mesi 83 milioni di persone nel mondo. È un videogioco, lo scopo è creare e mantenere prospera una fattoria. Per giocare basta iscriversi a un social network, ad esempio appunto Facebook, ma anche MySpace, e scaricare un'applicazione gratuita. Non occorrono particolari abilità, questa è un'altra delle caratteristiche che spesso ricorre in questi social game, cioè non è richiesta una conoscenza specialistica di qualcosa. Altri giochi, più di 30 milioni di persone hanno scelto Café World, è un ristorante virtuale nel quale bisogna preparare e servire panini, e poi ci sono quelli dediti a Zynga Poker, che è una rivisitazione del Texas Hold'em Poker, che è naturalmente una declinazione del poker online che sta avendo un successo notevolissimo in tutto il mondo. Poi ce n'è uno particolarmente discusso che si chiama Mafia Wars, praticamente guerre di mafia, però risulta il passatempo preferito di 25 milioni di iscritti a Facebook. Lo scopo del gioco è reclutare il maggior numero di amici per formare una gang criminale con base a Little Italy. Naturalmente è tutto finto, non c'è niente di vero, è appunto un gioco, una finzione. Vi dicevo che il 55% dei giocatori sono donne. Un altro dato che forse vi stupirà, o almeno io sono rimasto abbastanza stupito, l'età media di questi giocatori di giochi sociali, di social game, è di 43 anni. Stiamo parlando di età media, quindi significa che ci sono anche giocatori oltre i 43 anni. Non è quindi affatto una cosa per teenager. Negli USA, negli Stati Uniti, il 46% dei giocatori, quindi praticamente uno su due, ha più di 50 anni. Soltanto il 6% dei giocatori ha meno di 21 anni, quindi questo è un po' il dato che dimostra anche il grande successo in tutte le fasce di età di questo tipo di giochi. Il 95% di chi gioca più volte durante una settimana. Complessivamente si calcola che questi social game muovano un giro d'affari di 3,6 miliardi di dollari, mal tradotti sarebbero circa 3 miliardi di euro. Bisogna stare attenti a Verte Focus, perché questi giochi attirano le persone grazie alla loro gratuità, ma poi propongono magari acquisto di con soldi veri di beni virtuali che servono al gioco, quindi poi diventano anche una cosa dispendiosa da sostenere. Noi abbiamo poi trovato su Focus sempre questa nuova ondata dei giochi online, si chiamano MMO, vuol dire giochi multiplayer, multigiocatore di massa. Il più famoso di questi nuovi giochi si chiama World of Warcraft e ha delle creature mitologiche, ci giocano già in 12 milioni. Sono dei giochi, appunto, diciamo dei giochi di ruolo in qualche modo, per trovare un paragone con quello che può essere un gioco non nella realtà virtuale, non nel computer. Vi dicevo, appunto, attenzione all'aspetto monetario, all'aspetto finanziario della questione, perché sono giochi coinvolgenti, sicuramente divertono, rafforzano i legami, come avverte anche appunto Focus in questo articolo che è curato da Eugenio Spagnuolo, però in qualche caso possono essere intrusivi e possono contenere delle insidie. Sono giochi molto coinvolgenti, tra l'altro possono anche portare un po' le persone a rifugiarsi all'interno di questi giochi, un po' a fuggire dalla realtà. E poi il discorso che si faceva poc'anzi, cioè proponendo l'acquisto di beni virtuali che sono indispensabili per progredire nel gioco, ebbene, comportano delle spese vere. I beni saranno anche virtuali, ma i soldi poi sono proprio quelli veri, quelli che si è guadagnato e che bisogna mettere lì per continuare il gioco. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Ci è capitato qualche volta di parlare di scuole particolarmente turbolente, specialmente in ambito francese. Sulle riviste francesi di tanto in tanto, appunto, si segnalano le difficoltà nel mantenere la disciplina, nel mantenere un ambiente, diciamo, controllato nelle scuole francesi. La cosa è arrivata anche in Italia, in qualche modo, non, grazie al cielo, non per segnalare vicende analoghe, ma proprio per segnalare le questioni francesi. Ne parla Famiglia Cristiana in questo numero, parla di alunni indisciplinati, ribelli, magari pure violenti. Ora a rimetterli in riga ci pensano i poliziotti, ci potrebbero pensare i poliziotti. Infatti questa è la nuova proposta di Nicolas Sarkozy, del presidente francese. In Francia la violenza giovanile è un allarme sociale, soprattutto nelle infuocate periferie parigine. Qualche mese fa il governo ha incluso nel pacchetto sicurezza una misura molto discussa che fissa il coprifuoco dalle 23 fino alle 6 del mattino per i ragazzi che hanno meno di 13 anni. Questa misura prevede anche l'introduzione di poliziotti all'interno degli istituti scolastici difficili. Questo il progetto viene segnalato da Giulia Cerqueti su Famiglia Cristiana. Il progetto sarà sperimentato a partire da 53 scuole, nelle quali la gente però avrà un suo ufficio, con il compito non tanto di punire, si precisa, quanto di parlare con gli studenti a rischio, di ascoltare gli insegnanti che hanno problemi di delinquenza in classe. Questo succede appunto in Francia, naturalmente se ne parlava sui giornali francesi, ora ne parliamo anche su un settimanale italiano. E allora, visto che parliamo di ragazzi un po' turbolenti, una cosa che ho trovato invece su Vanity Fair: c'è una proposta di legge per vietare i ceffoni. Giù le mani dai bambini, questo è la segnalazione di Vanity Fair. La maggioranza dei genitori italiani non usa peraltro schiaffi né sculacciate per punire i figli. Il 55%, ci segnala Nando Pagnoncelli su Vanity Fair nel suo sondaggio a cura di Ipsos, sarebbe favorevole a vietare questo tipo di punizioni anche per legge. Come funziona il sondaggio? Il sondaggio ha chiesto, appunto, da genitore o se non ha figli in età scolare, immaginando di averne: le capita di ricorrere a sculacciate o schiaffi per suo figlio? Raramente, solo in caso di episodi gravi per il 46%, mai per il 31%, quindi tra raramente e mai siamo percentuali davvero molto molto elevate, ogni tanto per il 19%, quando le altre punizioni non hanno funzionato, e spesso per un 3%. Alcune associazioni, l'altra domanda che è stata rivolta, per alcune associazioni per i diritti dei minori hanno proposto di vietare per legge schiaffi e sculacciate in ambito familiare. Che ne pensa? È giusto proteggere i bambini anche a costo di una legge che interviene direttamente nell'educazione familiare, secondo il 24%, secondo un altro 31%, una legge di questo tipo, anche se giusta, sarebbe difficile da applicare. Facciamo un totale di 55% di gente che sarebbe d'accordo. Però c'è un 38% che dice: lo Stato non deve entrare in alcun modo nell'educazione familiare. Fanno quasi 4 soggetti su 10 che dicono è meglio se la legge si ferma, naturalmente salvo casi gravissimi, sulla porta di casa e poi all'interno della casa, insomma, uno cerca di organizzarsi secondo i suoi principi, naturalmente questo non, senza giustificare comportamenti assolutamente vietati, ecco. Nel commento si segnala appunto che alcune associazioni di difesa dei diritti dei minori hanno proposto di vietare per legge anche in Italia schiaffi e sculacciate, questo già avviene in altri paesi, e si ricordano appunto questi dati, c'è una buona metà degli intervistati che condividono questo tipo di intervento. Se da un lato è la conclusione del commento, una legge di questo tipo non viene invocata a gran voce, dall'altro però va detto che c'è maggiore consenso verso le campagne di sensibilizzazione all'utilizzo di metodi educativi che siano improntati al dialogo. Restiamo su Vanity Fair perché hanno provato a compilare, Camilla Strada ha provato a compilare in questo numero una serie di indicazioni sui cibi che fanno bene, che proteggono dai malanni più o meno gravi, mettendo insieme quindi un po' di delle varie questioni, delle varie indicazioni che, popolari che si danno sulla materia. Tra l'altro c'è un volume appena uscito, segnala la stessa Camilla la strada, si chiama I Magnifici 20, è un manuale dove un ricercatore della Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, si chiama Marco Bianchi, spiega come e in che quantità certi cibi possano prevenire, addirittura curare disturbi e malattie. La base di questo ragionamento è che il 35% dei tumori dipende da quello che mettiamo in tavola. Allora la proposta di Bianchi è: perché non partire da qui per fare prevenzione, si chiede Bianchi, e qui per cominciare propone anche un menù ideale, sarebbe questo: pasta integrale al pesto di rucola, pomodori e mandorle, broccoli all'olio di lino e curcuma, fragole, torta di pere, cioccolato fondente. E allora vediamo perché. Questo è un po' il gioco che propone Camilla Strada su Vanity di questa settimana. Il pomodoro riduce i rischi, ad esempio, di tumore alla prostata del 35%, è la stessa funzione che viene svolta da cavolfiori e da broccoli se mangiati almeno una volta alla settimana, che per di più sono anche degli antistress. Poi la frutta secca riduce il rischio di problemi cardiaci del 50%. Noci e mandorle, che sono poi ricche di melatonina, aiutano anche a combattere l'insonnia e il jet lag. Meglio è l'indicazione che viene appunto da questo volume delle pastiglie che sono in commercio. Le fragole, 250 grammi al giorno, equivalgono a un quarto di aspirina. Contengono appunto acido salicilico. L'effetto non è immediato, come avviene naturalmente col medicinale, però funziona, questo assicurano. E poi il cioccolato fondente, quindi si tratta tutto sommato non di cose per cui ci si debba sacrificare per mangiarle. Cioccolato fondente, 40 grammi al giorno per 15 giorni, funziona, dicono, da cura antistress, non per diabetici. Ricordiamo che queste sono indicazioni che vengono tratte appunto da questo volume, non vorrei che qualcuno le prendesse alla lettera, le segnaliamo così come le abbiamo trovate su Vanity Fair, magari se interessa potete approfondire proprio su questo I Magnifici 20. Comunque il cioccolato funziona da cura antistress, calma anche la tosse, contiene poi anche degli agenti antibatterici che prevengono le carie, questa l'indicazione appunto che traggo da Vanity Fair. Insieme, molto curiosamente, non è naturalmente nello stesso volume, però Vanity Fair ha deciso di mettere un rimedio assolutamente particolare, che è quello di un rimedio antidolorifico cosiddetto e antistress, che è quello di contare i soldi, immagino contare i propri in qualche modo. Lo hanno dimostrato in un'università, l'università del Minnesota in particolare, si sono messi a fare un esperimento. hanno coinvolto alcuni volontari e sono stati prima invitati a contare grosse cifre di soldi, poi scottati con dell'acqua bollente. Chi non aveva avuto banconote, chi aveva avuto banconote praticamente sentiva meno dolore rispetto a chi non aveva avuto la possibilità di contare denaro. Questo perché? Perché il denaro aumenta l'autostima e a sua volta questa può contribuire a immunizzare dalla sofferenza o comunque a rendere più sopportabile il dolore. Quindi pare che anche contando il denaro altrui in qualche modo si possa avere un beneficio, un sollievo. Se mi consentite, io resto un po' del mio parere, cioè forse questo tipo di antidolorifico può funzionare meglio se gli importi di cui si parla si riferiscono al proprio denaro. Restiamo sulle questioni di denaro, perché il Mondo di questa settimana, ma non è l'unico settimanale che se ne occupa, segue la questione delle tariffe postali agevolate. Ora dovete sapere che con un decreto è stata decisa la cessazione delle agevolazioni di queste tariffe che sono molto importanti per la spedizione in abbonamento anche dei quotidiani, non solo dei quotidiani del terzo settore, delle testate del terzo settore, ma in generale per tutta la stampa. Qui la segnalazione che viene dal Mondo, naturalmente la notizia sta creando molta molta polemica, è dedicata proprio alle questioni delle onlus. Non c'è pace per le migliaia di onlus italiane che campano donazioni a parte sul 5 per 1000, avvertono dal Mondo. La quota di imposte, come abbiamo detto appunto, cui lo Stato rinuncia per destinare alle organizzazioni non a scopo di lucro. È arrivata questa doccia fredda il 30 marzo scorso di abolire le tariffe agevolate postali. Il risultato è un aumento del 500% per ogni singola spedizione e naturalmente una levata di scudi da parte di 23 organizzazioni no profit, tra cui Amnesty International, il FAI, Greenpeace, il WWF, l'UNICEF, Save the Children e così via. Queste associazioni denunciano che il provvedimento danneggia gravemente tutte le attività di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi. Tra l'altro, su Famiglia Cristiana, proprio di questa settimana, l'editoriale del direttore Don Antonio Sciortino è dedicato sempre a questo tema. Quindi una misura decisa dal governo alla quale, va detto, si sta cercando in qualche modo di rimediare, che si sta cercando di correggere, che però mette decisamente in difficoltà la stampa e in particolare naturalmente anche chi vive nel non profit e quindi ha risorse più ridotte. E con questa segnalazione si conclude la nostra puntata di Magazine 24. Io ringrazio Filippo Ureggi anche questa mattina in regia, grazie a Margherita Ina e Vittoria Mussini che mi hanno aiutato a preparare questo programma. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata, così come tutti i programmi di Radio 24, sul nostro sito www.radio24.it. Grazie e a risentirci sabato prossimo. Buona domenica a tutti.